l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, eccoci qua con l'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa, alla cultura europea, un programma in collaborazione con il network paneuropeo euronet.eu. Questo è l'indirizzo del portale che vi consiglio di visitare, tante inchieste, tanti dossier, tante voci diverse per affrontare argomenti comuni. E le coordinate per trovarci sui social network: facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter @FedericoTaddia, social network che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. In queste puntate di agosto stiamo così toccando alcuni temi, stiamo facendo puntate monotematiche. La puntata di oggi è una puntata particolare perché abbiamo scelto alcuni dei progetti più significativi, più belli, più stimolanti di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi. Progetti che hanno una duplice caratteristica: sono progetti a respiro europeo e sono progetti che potrebbero essere replicabili. Oggi ve li ripresentiamo, andiamo a capire come sono evoluti anche in questi mesi. Insomma, facciamo un viaggio nell'Europa che ci piace. La rivoluzione culturale si può fare anche col pomodoro, soprattutto se è un pomodoro etico, se è un pomodoro, per esempio, che proviene dalle terre confiscate alla mafia. È un po' questa l'idea che c'è dietro a Eticando, il concept store nato a Parigi e ideato da Caterina Avanza e Ludovica Guerreri, concept store che abbiamo praticamente inaugurato in diretta qui all'Altra Europa a marzo. E Ludovica è qua con noi. Ciao Ludovica, buon sabato, ben ritrovata. Ciao Federico, ciao a tutti, buongiorno. Allora, Eticando, un nome, un suono che già racconta tanto. Ma cosa c'è dietro? Cosa avete voluto portare a Parigi? Eticando ha aperto a marzo scorso, come hai detto tu, e abbiamo voluto portare a Parigi l'Italia del made in social italiano, bello e buono. Quindi abbiamo voluto creare una vetrina per i bellissimi, stupendi progetti che sono fatti dalle cooperative italiane. Quindi cooperative italiane, cooperative sociali. Per cooperativa sociale appunto si intende la cooperativa, per esempio, nata all'interno di un carcere, oppure tutti i prodotti dell'associazione Libera, quella sull'educazione alla legalità, tutto ciò che l'Italia bella produce. Sì, esatto, lavoriamo con tre categorie, diciamo così, di cooperative sociali: le cooperative antimafia come Libera e il Consorzio Guel, che producono dei prodotti fratti sui territori confiscati alle mafie, le cooperative di lavoro carcerario che lavorano dentro le prigioni italiane e le cooperative che lavorano con persone che hanno fragilità psichiatriche. I prodotti che vendiamo da Eticando sono tutti prodotti di altissima qualità, e questo è un concetto che teniamo molto a ripetere, perché acquistando questi prodotti non solo si fa un atto di acquisto sociale responsabile, ma spesso e volentieri si acquista un prodotto buono e a volte anche migliore degli altri. E tutto ciò per fare educazione alla legalità, educazione, a promuovere anche un'Italia che magari all'estero non è così nota, perché se l'Italia è mafia, voi cercate di raccontare che l'Italia è anche antimafia. Assolutamente sì, infatti da noi si parla molto di mafia, si parla molto di problemi, di problematiche sociali che è il nostro paese, ma soprattutto si raccontano le storie di coloro che stanno cercando di cambiare quindi la loro il loro percorso, il loro passato, il loro vissuto. Esattamente. Quindi il messaggio che noi vogliamo dare è sempre positivo, assolutamente positivo, ed è esattamente questo che abbiamo voluto racchiudere in una frase che abbiamo scritto sul nostro muro, che è quello che un altro, chi non vede un altro mondo è cieco. Quindi contro la logica della rassegnazione, ciascuno di noi può fare un atto concreto per cambiare le cose. Ecco, sono già passati diversi mesi dall'inaugurazione, si può già fare un primo bilancio? Sì, questi primi 6 mesi di vita, devo dire, sono stati molto molto faticosi, ma molto molto interessanti e ci hanno dato tantissime soddisfazioni, questo sì. La nostra iniziativa è stata sostenuta molto dalla stampa, sia francese che italiana, infatti vi ringraziamo moltissimo, ma soprattutto è stata sostenuta dai cittadini, sia francesi che italiani. Gli italiani sono molto orgogliosi di trovare a Parigi un posto di eccellenza, dove appunto vengono raccontate le storie dell'Italia bella, dell'Italia che funziona e dell'Italia che è pronta a dir no. E i francesi all'inizio rimangono molto sorpresi, rimangono molto stupiti, ma dopo che hanno ascoltato le nostre storie, perché c'è bisogno di un po' di tempo per fargliele capire, fargliele passare, ma passato questo primo momento sono estremamente coinvolti anche loro dal nostro progetto, e quindi ci sostengono sia partecipando agli eventi, sì, che organizziamo con cadenza settimanale, sia proprio partecipando, appunto, venendo a mangiare da noi e comprando i prodotti delle cooperative sociali italiane. Ecco, quando dici che sono i francesi sono stupiti di cosa? Cioè di trovare un angolo completamente dedicato all'educazione, alla legalità o al sociale? È questo che li spiazza? È una sensibilità diversa? Sono stupiti soprattutto dei progetti che noi raccontiamo, perché sono dei progetti che in Francia non esistono. In Francia non esiste una legge sulla confisca e la restituzione e riutilizzo dei beni sociali, sì, dei beni a scopi sociali, e non esiste le cooperative di lavoro carcerario. Sono progetti che qui non esistono e quindi rimangono estremamente stupiti del fatto che esistono in Italia e che hanno questo forte impatto sociale. È qualche novità che lancerete nei prossimi mesi? Sì, abbiamo lavorato e continueremo a lavorare su grandi progetti. Per esempio, il mese scorso abbiamo avuto l'onore di ospitare Ettore Scola e la prima tappa europea di Libero Cinema in Libera Terra. Certo. Il progetto che porta il cinema nelle terre confiscate alla mafia, nei territori un po' dimenticati dall'Italia. E qui a Parigi abbiamo riempito una piazza del centro con la proiezione del film Placido Rizzotto di Pasquale Scima, che devo dire che è stata una grandissima soddisfazione. In progetto per settembre abbiamo il lancio a Parigi di Addio Pizzo Travel, quindi i pacchetti viaggio, i pacchetti turistici per visitare Palermo e la Sicilia con questo tour operator molto speciale che è Addio Pizzo. Sì. Mm-hmm. Abbiamo una serata il cui tema sarà Donne e Mafia, è prevista la partecipazione di Rita Borsellino, e stiamo lavorando per portare a Parigi la carovana antimafia a fine ottobre. Quindi insomma, sono i grossi progetti su cui stiamo lavorando, e poi ce ne sono milioni, tantissimi piccoli progetti su cui lavoriamo giorno per giorno. Vi aspetta una stagione impegnativa e ci ritroveremo sicuramente per parlare di quello che farete lì. Ad Eticando ricordiamo il sito www.eticando.com, ci sono tutte le dritte e le coordinate anche per contattarvi direttamente per eventuali domande o approfondimenti. Grazie davvero Ludovica, grazie a te, grazie a Caterina, buon lavoro e buona estate. Grazie, grazie a tutti. Adesso ci fermiamo, un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. L'Unione Europea premia i giovani fotografi con ricchi premi. Fotografa un progetto è il concorso indetto dalla Commissione Europea che mette in palio attrezzatura fotografica per un valore di 1.000 euro e un viaggio a Bruxelles. Come funziona? Scattate una foto ad un progetto commissionato dall'Unione Europea nella vostra regione, principalmente uno di quelli promossi dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale o dal Fondo di Coesione. Sono progetti mirati ad aiutare le regioni meno avanzate a modernizzarsi, per esempio sviluppando le competenze della manodopera locale, sostenendo l'imprenditorialità o proteggendo l'ambiente. Nelle immagini deve figurare il logo del progetto, un cartellone con la bandiera dell'Unione Europea e le informazioni sui fondi erogati dall'Unione Europea. Per maggiori informazioni visitate il profilo Facebook della Commissione Europea all'indirizzo facebook.com/European Commission. L'altra Europa. Europostit. Your rights, your future. La Commissione Europea ci chiede un consiglio. Dato che il 2013 sarà l'anno europeo dei cittadini, la Direzione Generale Giustizia della Commissione Europea ha lanciato un sondaggio pubblico sui diritti dei cittadini. Quali sono gli ostacoli che impediscono il libero esercizio della cittadinanza europea quando viaggiano in Europa, votano o si candidano alle elezioni? E ancora, quali sono le difficoltà che incontrano quando fanno acquisti online? Se volete far sentire la vostra voce e raccontare la vostra esperienza, scaricate il questionario online. I risultati saranno inseriti nella relazione che la Commissione europea presenterà tra un anno. Per informazioni, cercate Your Rights, Your Future sul sito ec.europa.eu. Quello che state ascoltando è l'audio di uno spot che abbiamo già pubblicato anche sulle nostre pagine in Facebook. Uno spot che parla di eco-innovation. In questa puntata interamente dedicata a progetti europei che ci piacciono e che vogliamo diffondere, abbiamo inserito anche questo eco-innovation. Il concetto è che business e ambiente vanno d'accordo quando ci sono le idee, ma per capire bene che cos'è eco-innovation abbiamo invitato Benedetta Delanno, che è il punto di contatto del Ministro dell'Ambiente per il progetto eco-innovation. Buongiorno Benedetta, buon sabato. Salve, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che cos'è quindi questo eco-innovation? Allora, eco-innovation è innanzitutto in questo caso specifico dei progetti, è un programma comunitario che cofinanzia dei progetti eco-innovativi. Cosa vuol dire l'eco-innovazione? L'eco-innovazione è qualsiasi tipo di innovazione che possa ridurre l'impatto ambientale e nello stesso tempo possa contribuire anche a un utilizzo minore e più efficiente delle risorse naturali. Benissimo, quindi questa è la coordinata essenziale, diciamo, per partecipare ai progetti. Uno presenta il progetto, possono farlo anche i privati o bisogna essere istituzioni? Bisogna essere... Sì, questo programma in particolare della Commissione, questo è una sezione che la Commissione ha dedicato specificamente all'eco-innovazione all'interno di un programma che è proprio dedicato alla competitività e l'innovazione per le piccole e medie imprese. Quindi i soggetti, diciamo, possono partecipare tutte le persone giuridiche che sono residenti nei territori dell'Unione Europea, ma con un focus particolare sulle piccole e medie imprese. Quali sono stati i risultati ottenuti finora? Un progetto già in essere? Beh, dunque, devo dire che da questo punto di vista questo programma è una piacevole sorpresa rispetto alla tendenza che abbiamo come Italia a vedere cofinanziati progetti a livello europeo, perché noi in questi anni, dal 2008, anno della prima call, noi siamo sempre fra i primi posti, secondo posto, terzo posto, sia come coordinatori di progetti sia come partecipanti. Ci puoi fare... I risultati sono ottimi, direi, perché per esempio tra il 2008 e il 2010 abbiamo 40 progetti in corso sui 140 più o meno complessivamente che sono stati cofinanziati dalla Commissione, e anche i risultati dell'ultimo bando, quello del 2011, e che attualmente i progetti sono in stato di negoziazione con la Commissione, noi abbiamo nella shortlist ben 10 progetti che speriamo, insomma, possano essere approvati tutti in via definitiva, perché questo potrebbe darci un'ottima iniezione di fiducia in un momento così difficile, insomma, per le nostre imprese, e anche un segnale chiaro che come l'ambiente possa svolgere un ruolo centrale anche per rilanciare l'economia. Ci puoi fare qualche esempio di questi progetti in concreto per dare appunto qualche visione anche a chi fosse interessato a partecipare? Certo, come dicevo, allora i progetti italiani sono italiani sia perché sono stati presentati da un'unica impresa italiana, o perché qualche impresa italiana ha partecipato a consorsi con altre imprese. E quindi facendo una rapida panoramica, considerando che sono tutti ottimi e di altissimo livello e tutti quindi altamente replicabili in Europa, tra quelli per esempio degli ultimi anni, considerando che ci sono alcune priorità che questo programma finanzia, per esempio nel settore del riciclo dei materiali piuttosto che dell'edilizia sostenibile, settore alimentare anche. Sul riciclo materiali per esempio sono stati finanziati dei progetti che permettevano un nuovo utilizzo dei pneumatici a fine vita che non venivano più utilizzati come combustibile, come normalmente era prassi, diciamo, in uso fare, esatto, sì. Ma come piano di posa stradale, invece quindi di utilizzare la massicciata, quindi con un evidente risparmio anche di risorse naturali come le pietre, e non intaccavano il paesaggio, questo tipo di processo. Quindi insomma questo è un ottimo esempio. Oppure anche il processo di trattamento dei rifiuti della calce per produrre ceramiche di qualità, piuttosto che il riciclo delle bucce, questo mi ha colpito in maniera molto carina, il riciclo delle bucce di noccioline per fare dei pannelli, oppure nell'edilizia sostenibile una nuova colla senza metanolo per il parquet. Quindi insomma tutta una serie di idee di prodotto, di processo, ma anche adesso ho trattato solo quelle diciamo più a livello di prodotto, però ci sono anche delle innovazioni di processo, di servizio molto importanti. C'è un settore tutto dedicato alla green business, quindi per noi come Ministero abbiamo attivato una pagina con tutte le informazioni e anche un database diretto, un link diretto a tutti i progetti. Quindi consiglierei, ecco, per maggiori informazioni, per entrare più nel dettaglio, perché qui ho dato solo alcune indicazioni di massima, sì, di controllare il nostro sito, dove ci sono tutte le informazioni anche più approfondite sul programma, e poi accedere senz'altro a questo database per verificare, a seconda del settore di interesse, quali sono i progetti, ci sono i sommari del progetto, i partner, e quindi approfondire, perché magari così le informazioni sono un po'... Assolutamente, ci puoi ricordare qual è l'indirizzo? Sì, senz'altro, www.minambiente.it, e sotto la sezione argomenti c'è il CIP Eco Innovazione. Perfetto. E da lì ci sono tutte queste informazioni più approfondite. Grazie davvero, Benedetta, ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate per approfondire ancora meglio l'intero programma Eco Innovation. Ciao, buon sabato e buona estate. Grazie anche a voi, arrivederci. Europost-it. Greenboard, il social network che ama la terra. L'ecologia non è più un optional, deve diventare un valore universale. I giovani sono i protagonisti della rivoluzione verde che sta investendo l'Europa. E per imparare gli uni dagli altri, con il sostegno finanziario della Commissione europea e della German Environmental Foundation, hanno messo in piedi un social network per ambientalisti. Si chiama Greenboard ed è definita la rete dei giovani amanti della natura. Cercate informazioni, consigli pratici e idee da replicare. Mettetevi in contatto con altri ambientalisti attraverso la chat e il forum. Pubblicizzate le vostre iniziative e raccogliete fondi e volontari per creare un mondo migliore. Per farvi un'idea del dinamismo dei giovani ambientalisti di Greenboard, leggetevi il blog e fatevi un profilo su eurotop.ning.com. Buona Europa verde a tutti! Questi sono i nostri Europost-it, sono dritte, sono consigli, sono segnalazioni. In questa puntata interamente dedicata a progetti replicabili della bella Europa, la parola creatività si sente spesso e continuiamo a mettere la creatività al centro con un premio Inve Factor, è un concorso si premia la creatività sostenibile dei giovani del terzo millennio, una competizione organizzata dal CNR, dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea dedicata ai giovani creativi degli istituti superiori. E con noi c'è la coordinatrice di Infactor, è una ricercatrice del CNR. Diamo il benvenuto a Rossella Palomba. Ciao Rossella, buon sabato. Buongiorno a tutti. Allora, spieghiamo bene che cos'è questo Infactor. Infactor, tutti conoscono X-Factor. È vero, cioè esatto. Quella trasmissione televisiva che cerca il fattore X nei giovani, cioè il saper cantare, ballare e così via. Noi cerchiamo il fattore INV, cioè il fattore inventori. Che cosa vuol dire? Noi cerchiamo dei giovani che fin dalla scuola superiore, perché i nostri giovani non sono laureati né sono universitari, hanno avuto la capacità, di concerto con i loro professori, di produrre una invenzione anche brevettabile. Questo perché? Perché in Italia abbiamo bisogno di nuove idee, di nuove menti da convogliare nel sistema ricerca, e perché l'Europa è proprio alla ricerca di talenti giovanili, di premiare, diciamo, la famosa creatività dei giovani. Mm-hmm. Quindi c'è proprio questa stimolare, no? Quella che è l'ideazione, quella che sì, può essere una suggestione, quella che può essere un'intuizione, perché sono le intuizioni che fanno la differenza, dando uno stimolo in più ai ragazzi che quello del concorso. Esatto. E come rispondono? Questo è il terzo anno che noi facciamo questa competizione a livello nazionale. La risposta mi lascia sempre molto stupita, perché noi non ci rendiamo conto di come nei nostri istituti tecnici e professionali ci sia veramente una grande capacità inventiva. Quest'anno noi abbiamo ricevuto all'apertura del bando oltre 25 invenzioni, cioè realizzate, non progetti, ecco, da cui poi abbiamo estratto una lista di 10 finalisti che presenteremo il 20 settembre a Spazio Europa. Benissimo. E poi mi pare che la premiazione verrà fatta all'interno della Notte Europea dei Ricercatori, vero? I primi tre vincitori, ecco, verranno all'AIT, Accendi la luce sulla scienza, che è un'altra grande manifestazione che organizza il CNR, ed è una manifestazione europea, sì. Per cui i giovani saranno vicino, diciamo, ai grandi, no? Cioè i giovani inventori vicino agli scienziati professionisti. Tra l'altro quest'anno, grazie, questo diciamo ve lo do in anteprima, sì. Tutti i nostri finalisti saranno diciamo visibili, cioè tutte le loro invenzioni saranno, perché i primi tre verranno all'AIT a Roma, appunto Accendi la luce sulla scienza, e gli altri saranno portati a Trieste Next, si chiama. Certo, è no? Una manifestazione proprio sull'innovazione e sulla creatività. Dove anch'io dirò in anteprima che saremo proprio in diretta da Trieste quel giorno, quindi avremo quindi modo di presentare i progetti, in diretta. Esatto. Grazie davvero Rossella, ricordiamo il sito che è www.infactor.cnr.it per avere tutte le informazioni su questo importante progetto. Grazie, buon sabato e buona estate. Noi ci fermiamo, un po' di pubblicità, poi rientriamo subito con l'altra Europa. L'altra Europa. Credit crunch, bank bailouts, debt. It's always bad news when it comes to finance. Personal debt in the UK rises every day and is now higher than GDP. This is hardly surprising, as seen as more than 90% of British adults have never been taught how to manage their money. My bank addresses this need by developing young people's finance and enterprise skills. Young people learn through fun and interactive sessions while developing practical skills that will be essential throughout their lives. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa in una puntata interamente dedicata a progetti belli, nati, cullati all'interno della nostra Unione Europea, progetti che possono essere replicati, possono essere copiati, possono diventare ispirazione per progetti simili. Ve li stiamo raccontando nuovamente, progetti che abbiamo già incontrato lungo il percorso, lungo la strada dell'altra Europa, progetti però che sono cresciuti, che sono evoluti, e appunto vogliamo fare un po' il punto della situazione. E lo spot che avete appena ascoltato è quello di My Bank, la banca dei giovani nata a Londra, fondata

tutto il territorio. C'è stato un piccolo disturbo sulla linea, non abbiamo capito il nome. Come hai detto che si chiamerà il progetto in Italia, a Rimini? Sbanchiamo. Ah, sbanchiamo, ok, perfetto, mi sembra adattissimo e è anche l'ironia romagnola sotto questo termine. Portogallo e Irlanda, altre due nazioni dove state mettendo piede. Sì, Lisbona, siamo in conversazioni con diversi enti a Lisbona per creare un progetto su tutto il territorio in Portogallo. In Irlanda abbiamo già cominciato il training con un partner che ha un'impronta su tutto il territorio in Irlanda, però a base a Dublino. E quindi questo progetto, io credo che nei prossimi anni vedremo diversi progetti proprio ispirati dal nostro MyBank che cominceranno ad esistere in altri luoghi in tutta Europa. Poi abbiamo anche progetti in Cina, quindi non ci fermiamo in Europa. Lili, come sempre, complimenti davvero a te e a tutto il tuo team, perché hai una grande squadra che riesci a coinvolgere con il tuo entusiasmo. Ricordiamo il sito che è www.mybank.org, bank scritto Bologna, Napoli, Kenya, link che abbiamo già messo nella nostra pagina in Facebook. Buon lavoro e buona estate. Ciao Lili. Ciao, grazie. Europost-it. Nanoism, scrittore in un tweet. Esisteva già negli Stati Uniti, ma finalmente qualcuno si è deciso a portarlo anche in Europa, in Svezia per l'esattezza. Parliamo di nanoismer.se, un sito web dedicato ai racconti letterari in forma di tweet. Per essere pubblicati è necessario infatti saper scrivere storie di massimo 140 caratteri e che abbiano una certa profondità. Ogni settimana vengono scelte e pubblicate le tre storie migliori. I vincitori ricevono un premio simbolico in denaro, ovvero 8 corone svedesi, e un invito a cena da parte dei fondatori del sito, un menù casalingo cucinato da mamma. È un progetto letterario che per il momento non ha alcun fine di lucro, ma potrebbe, se prende piede, tradursi in un libro. Per leggere i mini racconti, visitate il sito nanoismer.se. Junior Achievement Enterprise Challenge is a competition, an entrepreneurship competition that brings together young entrepreneurs from different countries, and the best ideas from each country that participate are chosen to come to this competition. We're going to compete to the best business idea. It's nice to see how different are one to the other and how different they present it, but the main thing or the common thing to all of them is the illusion they have and they really want to defend idee di questa Europa che ci piace. Continuiamo a presentarvi progetti e programmi facilmente replicabili ai quali si può partecipare per avere opportunità di crescita, di formazione. Rimaniamo in ambito scolastico, lo facciamo con Yahe Europe, che è la più grande organizzazione che fornisce formazione all'imprenditoria ai ragazzi dalle scuole elementari alle scuole superiori, un progetto a respiro europeo. Pensate che solo nel 2011 sono stati più di 3 milioni gli studenti che hanno partecipato a vario titolo ai programmi dell'organizzazione, e con noi c'è Miriam Cresta, amministratrice delegata della sezione italiana. Buongiorno Miriam, buon sabato. Buongiorno e buongiorno a tutti voi. Allora, un progettone, perché è un progetto, come abbiamo detto, a respiro europeo. Si entra nelle scuole di ogni ordine e grado per dare una formazione imprenditoriale. È questo l'obiettivo primario? Certo, è l'obiettivo primario, perché in qualche modo si crede che sempre più sia importante per i ragazzi sviluppare quella che in Europa viene definita l'autoimprenditorialità, quindi una serie di competenze chiave per, tra virgolette direi io, cavarsela poi quando si diventa grandi. Mm-hmm. Ma si entra nelle scuole però non per parlare di soldi, di fatto, si cerca di offrire quelli che sono gli strumenti, quelli che sono le dinamiche, quello che è uno spirito imprenditoriale, dove però la finalità non è solo il guadagno. Assolutamente no, la finalità fondamentale è quella di acquisire delle competenze, come dicevo prima, che consentano ai giovani di riuscire poi a interpretare in modo corretto e consapevole il mondo che hanno intorno, e soprattutto di riuscire a realizzare quelle che sono in qualche modo anche i propri desideri, le proprie aspettative in campo professionale, perché sappiamo benissimo che se poi una persona, un individuo è, come posso dire, ben orientato e soddisfatto della sua attività professionale, poi è anche in grado di avere una qualità della vita migliore e di fare degli progetti che quindi sono anche più legati alla sfera personale. Quindi questi due aspetti vanno di pari passo. E Miriam, le chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo immediatamente da lei per conoscere magari nel concreto alcuni di questi progetti, alcune di queste imprese create per gioco, ma seriamente, dai ragazzi. L'altra Europa. Eccoci qua ancora, l'altra Europa con Miriam Cresta, amministratrice delegata di Junior Achievement Young Enterprise Italia, questo progetto europeo di formazione all'imprenditoria ai ragazzi dalle scuole elementari alle scuole superiori. E Miriam, ma i ragazzi che reazione hanno quando entrate nelle scuole portando la vostra proposta? Dunque, quando entriamo nelle scuole i ragazzi si sono già ritrovati degli insegnanti molto disponibili a sostenere il progetto, quindi sì, partono già fortunati e con, come dire, con molto entusiasmo, perché è un modo diverso di fare scuola e di apprendere che parte proprio dall'esperienza diretta, dal lavorare molto insieme in gruppo, dall'uscire dalla scuola e frequentare aziende, persone d'azienda, imprenditori, quindi tutti elementi che come dire, innescano più curiosità, innescano domande e voglia quindi di capire meglio quello che sta intorno a loro. E poi queste cose vengono riportate a scuola e quindi riapprese, riadattate a quelle che sono le tradizionali lezioni e le tradizionali materie che all'interno della scuola comunque si devono svolgere, però con una maggiore aderenza alla realtà. E l'altra cosa bella è che i ragazzi capiscono quello che sanno fare, quello che vorrebbero fare poi dopo nella vita. Mm-hmm. E c'è qualche esempio particolare che ti viene in mente di progetti, di imprese ideate dai ragazzi sui banchi di scuola? Beh, dunque, in Italia ci sono in questo momento, quest'anno 3.000 ragazzi hanno fatto questo progetto, l'anno prossimo abbiamo in mente che diventino 8.000, quindi più del doppio, con un ministero dell'istruzione che, come dire, in qualche modo promuoverà direttamente il progetto, soprattutto all'interno delle scuole superiori, quindi sì, anche i numeri dell'Italia cominciano a diventare dei numeri significativi anche all'interno dell'Europa. Questo progetto in Italia è sviluppato soprattutto nelle scuole superiori, come dicevo, e i ragazzi del quarto anno all'interno della scuola sviluppano dei veri e propri progetti imprenditoriali. Ogni anno vi sono progetti nuovi che vengono appunto attivati. Quest'anno ad esempio ce n'è stato uno assolutamente carino che ha rappresentato l'Italia in Europa, di alcuni ragazzi pisani che hanno inventato una card che conteneva tutte le password che nell'arco della nostra vita ci troviamo a dover poi imparare per accedere alle, diciamo, ai vari servizi, da quello bancario ad altri servizi personali che attiviamo online. Un servizio che è stato ritenuto assolutamente utile, che in questo momento vi è addirittura un'azienda che sta contattando questi ragazzi per trasformarlo in un business. Ecco, quindi come un'idea, no? Voi date poi così gli strumenti per percorrere la strada finché questa idea possa diventare un progetto possibile, un progetto realizzabile. Il sito yaitalia.org per tutte le informazioni. Da settembre ovviamente, con la riapertura delle scuole, riparte alla grande il vostro lavoro. Grazie davvero Miriam, buon sabato e buona estate. Grazie a voi, ricambio, e grazie agli ascoltatori, arrivederci. Europost-it. L'Europa premia i giornalisti della salute. Si chiama Premio Europeo per il giornalismo sulla salute e vuole dare risalto al giornalismo dedicato ai diritti dei pazienti e all'assistenza sanitaria. I concorrenti potranno scegliere tra diversi argomenti: la campagna all'Europa per i pazienti, l'invecchiamento attivo e sano e la lotta contro il fumo. Ogni giuria nazionale selezionerà un vincitore, il cui lavoro passerà poi al vaglio della giuria europea. Ciascun partecipante può presentare fino a 2 articoli scritti in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, che devono contenere dai 3.800 ai 20.000 caratteri. Ci sono in palio da 1.500 a 6.000 euro. Per maggiori informazioni cercate Premio Europeo per il giornalismo sulla salute sul sito web della Commissione Europea ec.europa.eu. Il prossimo progetto di cui andiamo a parlare è un progetto che nasce in Italia ma che subito si è diffuso anche nel resto d'Europa. Si parla di alfabetizzazione tecnologica degli anziani in un anno importante, questo che è l'anno appunto dedicato all'invecchiamento attivo, l'anno europeo dedicato alla terza età. La fondazione è la Fondazione Mondo Digitale, con noi c'è il direttore generale Mirta Michilli. Ciao Mirta, ben ritrovata all'Altra Europa. Buongiorno a tutti, ciao Federico. Con la vostra fondazione avete tanti progetti paralleli, in particolare Nonni su Internet, che è quello che è un po' il vostro fiore all'occhiello forse, perché appunto c'è questo scambio generazionale, sono i ragazzi delle scuole che insegnano ai nonni ad utilizzare il computer, ma non solo. Quali sono le finalità principali della vostra fondazione? Beh, la fondazione si occupa di società della conoscenza inclusiva, una frase un po' difficile, ma fondamentalmente ci occupiamo di portare i benefici delle nuove tecnologie nella società, in particolar modo tra le categorie potenzialmente escluse, più svantaggiate, come possono essere gli anziani, no? Che tendono un po' a rimanere fuori dalle opportunità create da internet, dal computer, se non vengono accompagnati ed aiutati in questo. E poi ci occupiamo anche di innovazione tecnologica nelle scuole. Questa diciamo è la nostra seconda gamba molto importante, proprio perché anche le tecnologie oggi sono un'opportunità incredibile per una didattica più innovativa, per una didattica del XXI secolo. E di questo diciamo il progetto Nonni su Internet, a cui tu prima hai accennato, diciamo è un progetto a cui teniamo molto, che ci ha dato tantissime soddisfazioni e tanti successi, perché è un progetto che facciamo dal 2002. Noi già dal 2002 abbiamo lanciato questo programma di scambio intergenerazionale e invecchiamento attivo, ed oggi la Commissione europea nel 2012 è l'anno dell'invecchiamento attivo, ma non solo, hanno lanciato questo programma molto importante Horizon 2020, che sarà una linea di sviluppo molto, molto forte per tutti i prossimi anni, per cui chiaramente di questo noi andiamo molto orgogliosi. Mm-hmm. Ecco, quando oggi stiamo parlando di progetti europei replicabili, così è stato per voi, nel senso che in questo momento, oltre ad essere presenti praticamente su tutto il territorio nazionale, il vostro progetto ha varcato i confini italiani. Sì, grazie appunto a un finanziamento della Commissione europea, in realtà due, noi abbiamo avuto due anni fa, abbiamo portato Silver in Romania e in Belgio, ma soprattutto abbiamo realizzato dei manuali, cioè abbiamo tradotto tutta la nostra metodologia didattica con cui appunto sono i ragazzi delle scuole che insegnano agli anziani l'uso di internet, del computer, della posta elettronica, abbiamo replicato la metodologia in Belgio e in Romania. Poi l'anno scorso con il progetto The Knowledge Volunteer, in cui abbiamo aggiunto al lavoro dei ragazzi delle scuole il lavoro volontario di tutti quei giovani che si sono voluti affiancare a questo programma e volontariamente andare nei centri anziani, nei centri ricreativi per la terza età e aiutare chi va lì per intrattenersi, diciamo così, ad imparare anche ad usare il computer, internet e utilizzare poi tutti i servizi di government che sono a livello europeo e anche italiano molto sviluppati. E oggi siamo in Svizzera, nella Repubblica Ceca, in Grecia, in Romania, nel Regno Unito, in Belgio, in Spagna e in Irlanda. Ecco, e notate differenze tra una nazione e l'altra? Ovunque c'è bisogno di questa nuova inclusione sociale, perché non conoscere internet per gli anziani può essere veramente un problema oggi, sembra paradossale, ma esiste un'esclusione sociale da non conoscenza del mezzo. Ecco, l'Italia è avanti o indietro rispetto ad altre nazioni o è un problema comune? No, diciamo è un problema comune quello dell'invecchiamento attivo della popolazione, no? Perché i giovani stanno sempre meglio, per cui vogliono rimanere al passo con i tempi, vogliono anche utilizzare tutti i servizi che la pubblica amministrazione sempre più sta portando online, no? L'Italia in questo è all'avanguardia, i servizi di government del nostro paese sono molto avanzati, sono tutti un po' diversi, per cui non necessariamente imparare ad usare un servizio dell'INPS per esempio è altrettanto facile imparare a usare il servizio del catasto, l'Agenzia delle Entrate, per cui per una persona che non usa quotidianamente lo strumento proprio per lavorare c'è bisogno in qualche modo di essere accompagnato, no? E questo noi lo facciamo con tutta la nostra manualistica, con tutta, diciamo, poi i manuali d'uso dei vari servizi. E questo però, diciamo, il problema dell'esclusione potenziale dall'uso delle nuove tecnologie è comune. Ci sono alcuni paesi in cui gli anziani sono più organizzati, frequentano più circoli, per cui è facile trovarli, no? In qualche modo, perché per esempio noi, soprattutto al centro nord, abbiamo i centri sociali anziani, che sono luoghi di aggregazione molto importanti, soltanto il comune di Roma ne ha quasi 200, no? Per cui ecco, è facile, se c'è un programma strutturato come il nostro, proporlo ad ampie fette della popolazione anziana. Ci sono paesi invece come la Grecia, per esempio, questa è la nostra esperienza, oppure anche la Romania, in cui questi centri ricreativi non ci sono, per cui la scuola è lì che ha un ruolo importantissimo, perché è un aggregatore sociale sul territorio forte. I nonni sono nonni ovunque in tutta Europa. Questo è particolarmente significativo. Mirta, grazie davvero. Ricordiamo il sito per tutte le informazioni, mondodigitale.org, dove ovviamente sono raccontate le esperienze europee, ma ci sono anche tutte le dritte, tutte le coordinate per contattarvi, per vedere dove operate in Italia, per i nostri nonni, diciamo. E grazie Mirta, buon sabato e buona estate. Grazie Federico, arrivederci a tutti. Europost-it. Mostrami l'inclusione, il concorso europeo su disabilità e povertà. Se avete un'età compresa tra i 12 e i 26 anni e avete velleità artistiche, potete liberare la vostra creatività sul tema dell'inclusione e della lotta alla povertà. I partecipanti potranno creare video, file audio, disegni e vignette che abbiano come tema l'inclusione delle persone con disabilità nella vita di ogni giorno, le enormi potenzialità delle persone con disabilità e il loro ruolo nella lotta contro la povertà. Le opere selezionate verranno rese pubbliche il 17 ottobre 2012 in occasione della Giornata Mondiale per l'Eliminazione della Povertà e verranno inoltre prodotte ed utilizzate in tutto il mondo come materiale di sensibilizzazione. La scadenza per la consegna dei lavori è il 16 settembre 2012. Per maggiori informazioni visitate l'utile sito dedicato al concorso andexclusion.eu/contest. E termina qui questa puntata interamente dedicata all'Europa che ci piace, progetti, programmi replicabili di cui appunto volevamo fare un po' il punto della situazione. La puntata la potete riascoltare sul nostro sito radio24.it e tutti i link invece delle nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter, @FedericoTaddia. Eccoci qua, un grazie a voi che siete stati in nostro ascolto, un grazie a tutta la squadra, Margherita Ina e Viola Frifa che con me hanno scritto la puntata, a Peter Bescapè, oggi alla parte tecnica. L'appuntamento con l'Altra Europa, come sempre, è sabato prossimo alle 10. Ancora ciao e buona estate da Federico Taddia.